facile affondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Alla gente piace affondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Puncia la gente, ciancia, gonfia la tua guancia, ti parancia e ti lancia. Cazzate sulla propria identità, se non pesa più di un'oncia. Schizza dappertutto come lo spumante gancia. Usa la bilancia, pesa bene le parole. Ora rinuncia, sei troppa l'amore. Cercano le aole, chi lecca le suole. Ma questi qua si meritano solo museruole. Tipo Don Chisciotte assieme a Sancho Panza. Ti parla di titani della Mancia, più grandi della Francia, ma son mulini a vento. Slancia, che in Olanda c'è solo la gancia. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace affondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Alla gente piace affondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Se vi domandate dove sta la verità, da ciò che vi raccontano togliete la metà. E lì si troverà, sicuro bella fra. Gente abbonderà sulla sua realtà, perché è proprio vuota questa quotidianità. Nel mondo degli eccessi, chi t'apprezzerà? Se parli di routine e di normalità, siamo tutti diversi, ma in cosa non si sa. Bla bla bla bla bla, sento vociare bla bla bla. La gente parla tanto, mi sta qua. La fronte matita, dita, mi tappano le orecchie. Tante le cazzate, io ne sento parecchie, parecchie. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace abbondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Alla gente piace abbondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. La gente parla, parla, la si infiamma, ma canta il solito anagramma, pentagramma. Fare soldo, non vi sopporto, musicario soldo. Dille mille palle su, dille mille palle giù. Dille mille palle su e giù, su. Dille mille palle su, dille mille palle giù. Dille mille palle su e giù, su. Bolle fanno falle, sono le tue molle. Dalle stagne alle stelle, dalle bolle a stagne alle zitelle. Se tua pelle, balle a catinelle. Tu racconti storie come Verga le novelle. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace abbondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Alla gente piace abbondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace, sai, alla gente piace, sai. Alla gente piace raccontare cazzate. Alla gente piace abbondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei. Alla gente piace abbondare, non lo sai. Fiera di parole, festa degli obei obei.